Benvenuti al podcast Centro Dante Lisboa, un podcast pensato e costruito dagli studenti di italiano di livello B1 del Centro Dante. Il mio rapporto con l'italiano. Il mio processo per imparare l'italiano ha un suono. Sento questo suono tutti i giorni quando arrivo a casa dopo la lezione. Che cosa hai imparato? C'è anche un odore, è l'odore della cena. Ho sempre desiderato imparare una nuova lingua, una terza lingua. Pensavo questa lingua sarebbe stata il francese, perché è la lingua della mia ricerca accademica. Oppure il tedesco. C'era un ampio mercato del lavoro in Germania. Forse lo spagnolo sarebbe più facile, ma no, è italiano. Perché? Perché non sono solo il mio lavoro? Perché no? Perché sono anche sentimenti, desideri, sogni e scelte. Siccome non ho bisogno di lavorare con l'italiano, il processo è più piacevole. Ogni parola nuova che ho imparato ha un gusto diverso. Il verbo regolare ha un gusto di una buona focaccia con prosciutto. Vedo una regola e sono felice. Io mangio, tu mangi, lui, lei mangia. Io uso, io racconto. Che bello! Che regola affascinante, croccante come un'arancina che ho mangiato in Sicilia. Invece, i verbi regolari sono i cibi cattivi. Perché ci sono così tanti verbi regolari? Perché, Dante? Perché la coniugazione del verbo uscire non è io usciro? Esco! Ma dai, da dove vengono queste lettere ESC? L'italiano si lamenta sempre quando qualcuno cambia la ricetta della pizza margherita. Penso che quando dico io esco e non io usciro, è come se avesse mangiato una pizza margherita con le uova, la lattuga e la maionese. Non è male, ma è un po' strana, no? Le preposizioni sono come le verdure. Quando ero bambino, non mi piacevo, ma oggi lo so che sono importante. Ci sono più preposizioni in italiano che in portoghese e con regole diverse. Gli articoli sono i condimenti di queste verdure. Di con il e del, un broccolo con il sale. Di con la e della, una melanzana con il pepe. Capisce? Non è male, solo ho bisogno di imparare. Un'altra cosa che mi piace molto in italiano sono le parole che non sono dette, i gesti. Amo aggiungere le estremità delle cinque dita rapidamente, formare un cono col vertice alto e con la mano ferma o scosa più o meno velocemente e dire con impazienza: ma che vuoi? Ah, mamma mia, questa è la poesia, è l'arte. Questo è il mio processo. C'è un gusto, suono e odore. E odore. Non so se sarò mai fluente, però oggi voglio solo rispondere con ciò che ho imparato. Benvenuti alla rubrica videogiochi della Radio Dante. Io sono Daniel e oggi parleremo un po' di una modalità di gaming chiamata retro gaming. Prima di tutto, cos'è retro gaming? Insomma, il retro gaming consiste in giocare ai videogiochi antichi. Ma perché lo fare quando ci sono tantissimi nuovi giochi dappertutto? Il PlayStation 5, lo Xbox Series, il Nintendo Switch. Tutti portano spesso delle novità di tecnologia, ma anche del gameplay, ma manca ancora qualcosa. Per un gruppo di retro gamers, una parola guadagna risalto: la nostalgia. Queste sono le persone che hanno giocato quei giochi quando erano bambini, e adesso giocare li provoca la sensazione di tornare indietro nel tempo, magari per un passato amabile, tranquillo e pieno di piccole felicità. C'è anche un altro fattore determinante nella popolarità del retro gaming, la curiosità. I giovani, a chi piacciono i videogiochi, a volte vogliono imparare un po' come i suoi, oppure gli altri, giocavano nel passato, ed anche trovare una cosa di più comune con loro. Nintendo, secondo me, è la compagnia di videogiochi che fa più frequentemente delle riedizioni, come per esempio il Pokémon Diamante Lucente e Perla Scintillante, che danno una nuova faccia ai giochi originali del Nintendo DS e del Nintendo Switch. Oppure le riedizioni di antichi giochi di Super Mario o Game Boy. Questa pratica evidenzia la preoccupazione con questo pubblico a chi piace il retro gaming. Allora, dimmi quali sono i vostri videogiochi preferiti. Il retro gaming piace anche a voi? Ciao a tutti, benvenuti al nostro podcast sulla corsa. Io mi chiamo Enrique e oggi parleremo di uno dei miei argomenti preferiti, correre e tutti i suoi fantastici vantaggi. Iniziamo con i benefici della corsa. In primo luogo, la corsa è un'ottima maniera per migliorare la salute del cuore e mantenersi in forma. Ma non è solo questione fisica. La corsa ha anche benefici per la salute mentale, aiutando a ridurre lo stress e migliorare il tuo umore. È come una terapia per la mente e il corpo. Per i principianti è importante iniziare lentamente. Non corra subito come un campione italiano. Inizi con brevi corse e aumenti gradualmente la distanza. E non dimentichi di riscaldarti prima di partire. Un errore comune è sottovalutare l'importanza del riscaldamento, che è essenziale per evitare infortuni. Ci sono vari tipi di allenamento che puoi fare durante la corsa. Per esempio, l'allenamento a intervalli, dove alterni tra corse veloci e periodi di riposo, può aiutarti a migliorare la tua resistenza. Oppure puoi provare la corsa in salita per stimolare diversi gruppi muscolari. E ricordi, la varietà è la chiave del successo. Passiamo ora ai corridori italiani famosi. Un grande nome è Gelindo Bordin, vincitore della maratona alle Olimpiadi del 1988, e non possiamo dimenticare Paola Pini, una straordinaria maratoneta italiana con numerose vittorie internazionali. E studiare i successi di questi campioni può ispirarti nella tua corsa. Ecco a voi alcuni consigli e informazioni sulla corsa. E spero che questi suggerimenti vi aiutate a approfittare al massimo questa attività meravigliosa. Buona corsa a tutti e ci vediamo alla prossima. L'amica geniale, i romanzi napoletani. Nella vita ci sono libri che dovrebbero essere divorati, non solo letti. Elena Ferrante. Ho scoperto questa storia per puro caso mentre esploravo il catalogo di HBO alla ricerca di qualcosa che potesse interessarmi e così sono incappata nella serie televisiva L'amica geniale. Non avevo sentito parlare della serie prima, ma c'era qualcosa che mi ha spinto a scegliere questa opzione. La serie racconta la storia di due ragazze cresciute in un quartiere periferico di Napoli tra gli anni 50 e 60. Quando la storia inizia, Elena, Lenù, e Raffaella, Lila, sono i due bambini appena entrati a scuola, entrambe molto intelligenti e competitivi tra loro. La storia segue la vita delle due amiche e affronta molteplici tematiche, principalmente il ruolo della donna nella società di quel periodo, l'amicizia femminile e la maternità, ma anche il conflitto di classe, l'educazione, la città di Napoli e la presenza della mafia. Solo dopo aver terminato la serie e aver cominciato a cercare informazioni sulla storia, Ho scoperto che si basa sulla serie letteraria di Elena Ferrante, pseudonimo di una scrittrice italiana presumibilmente nata a Napoli. Sono rimasta così coinvolta nella storia che ho letto subito i quattro libri su cui è basata. Vi consiglio vivamente sia i romanzi che la serie. La stagione finale andrà in onda quest'anno. Vi consiglio vivamente la storia che mi ha fatto viaggiare a Napoli. Vi consiglio vivamente la storia che mi ha fatto desiderare di studiare l'italiano di nuovo.